Siamo nel trattato di Sukkah, primo capitolo, Mishnah Vav, sesta Mishnah, e stiamo continuando a vedere le norme che riguardano la halakha dello sechach, cioè della copertura superiore della Sukkah, il tetto della Sukkah. La Mishnah insegna la seguente cosa. Mesakechin, dalla parola sechach, si può coprire, fare da sechach sopra la sukkah, ban nesarin o bin nesarin, con delle travi. Che significa delle travi? Dei pezzi di legno, come vedete sotto nella figura, dei pezzi di legno dritti, semplici, normali. Si possono usare per lo sechach. Divrei Rabbi Yehuda. Questa sarebbe l'opinione di Rabbi Yehuda. Qual è il problema? Perché la Mishnah ci deve dire se si può usare questo oggetto come sechach o non si può usare? Abbiamo già studiato, pagina 1, abbiamo già studiato nelle Mishnayot precedenti che lo sechach deve essere qualcosa che deriva dalla terra e non deve essere attaccato alla terra. Inoltre non deve avere la possibilità di poter diventare impuro. L'homme kabel tuma. Un neser, una trave semplice, che non è considerato un utensile, diciamo così, non riceve la tuma, derive dalla terra. E allora qual è il problema? Perché dobbiamo parlare di questo? Prendiamo le travi e mettiamole sopra la succa. Invece qui vediamo, no, la biuda viene a dirmi si può fare. Perché avrei dovuto pensare che non si può fare? È chiaro perché? Perché se io prendo delle travi e copro la sukkah, non passa più. Non deve passare niente. Se io prendo le travi e copro la sukkah, sembra una casa. Non sembra una cosa temporanea. Non si entra a vedere. Questa è un'altra storia. Il problema è che sembra un tetto vero e proprio fisso e non sembra più una sukkah. Questo quindi dice Rabbi Yehuda. No, non è un problema, si può fare. Ora però approfondiremo. Prima di approfondire, vediamo le prossime tre parole. Rabbi Meir non è d'accordo. Rabbi Meir osser. Rabbi Meir dice assur, è vietato, lo vieta. Allora, qual è la discussione? Nella Gemara si discute su cosa è la discussione, ma noi prenderemo una delle linee esposte nella Gemara. Rabbi Meir e Rabbi Yehuda, secondo quanto spiega la Gemara, non discutono quando la trave ha una larghezza da 4 tefachim, 4 pugni in su. Se è da 4 pugni e più largo di 4 pugni, tutti sono d'accordo che la sukkah così non sarebbe valida, con tutta coperta con travi così larghe. Sono tutti d'accordo che è troppo simile a un tetto vero e proprio. Sia Rabbi Yehuda che Rabbi Meir sono tutti d'accordo che non va bene. Se invece queste travi fossero meno larghe di 3 tefachim, quindi diciamo tra i 25 e 30 centimetri, meno larghe di questo, su quel caso tutti sono d'accordo che sarebbe permesso. Che andrebbe bene, anche Rabbi Meir, che qui vieta, direbbe no, va bene, se è meno di 3 tefachim. Il punto della discussione tra Rabbi Yehuda e Rabbi Meir sta nel mezzo, una trave che è tra le 3 e le 4 tefachim, i 3 e i 4 tefachim. Questa è la machloket, questa è la discussione. Se tra i 3 e i 4 è troppo largo o non è troppo largo? Per Rabbi Yehuda è ancora permesso, infatti ha detto Mesachechin banesarim, è permesso usare le nesarim per lo sechach, per la copertura della sukkah, e Rabbi Meir dice no, è già troppo grande, i tre tefachim sono già a mo di tetto vero e proprio, e quindi dice è vietato. Ora, Rabbi Meir, qual è il problema innanzitutto della sukkah che è troppo simile al tetto? Innanzitutto abbiamo detto che la sukkah deve essere una struttura temporanea e quindi quando c'è una similitudine con una struttura fissa è già un problema. Ma oltre a questo c'è un altro problema. Quando la sukkah sembra un tetto, quindi ci sono queste travi larghe coprono completamente, allora la persona per sbaglio potrebbe mettersi sotto un tetto vero e credere che sta sotto la sukkah. Magari ha la sukkah fatta in un certo modo, in terrazza, o una chiostrina che un po' è casa, un po' è sukkah, e non distingue più tra quello che è il tetto vero e quello che invece dovrebbe essere il tetto della sukkah, visto che è così simile a un tetto normale. Allora, la discussione di nuovo è tra i tre e i quattro tefachim. Va bene? Quanto è un tefach? Un tefach è un pugno. Stiamo Così. parlando di circa 8, tra 8 e 10 centimetri. 1, 2, 3, così Sì, largo. così saremmo ancora, se meno di tre pugni saremmo ancora nel mutar, nel Mettere 3 e permesso. 4 nella discussione. Sì. È tanto L'Alakha seguirebbe l'opinione di Rabbi Yehuda, però. che fra i 3 e i 4 ancora andrebbe bene. Ok? Ora, vediamo Scusa, il proseguimento della Mishnah. Sì, dimmi. queste travi, quando vanno messe sopra, devono essere separate o attaccate? Qui stiamo parlando che sono attaccate. Ora vedremo. Dunque, è proprio un tetto Quindi questo. sembra un tetto, e questo è il problema. Ma allora la differenza tra 3 o 5 non è sempre uguale, se li copri tutti. Perché io pensavo che erano separate, Sempre poi ci metti sopra il quelle 50% foglie. d'ombra. E Eh? Com'è? mo arriveremo Sempre perché. fare ombra al Ma 50%. adesso si sta parlando Vabbè. di materiali. Allora, il problema è se si applica il discorso che è troppo simile a un tetto, vero o no. Sì. Su questo discutono, Certo. ok? Ora, se invece, secondo caso della Mishnah, e qui la figura a sinistra, la penultima figura della pagina ci aiuterà. Natan Aleha, se la persona mise sopra la sukkah una trave, Neser, una trave, Shehu Rachav Arba'a Tefachim, che è sì largo 4 Tefachim, ok? Però l'ha messo a lato, come vedete nella figura, c'è uno sechach, una copertura normale. E al lato c'è una trave larga 4 tefachim, che in teoria, se fosse tutta la sukkah coperta di una trave di 4 tefachim, non andrebbe bene. Ma se ce n'è una al lato, come nella figura, kshera, la sukkah stessa rimane kasher, però ubilvad soltanto shelo yishan tachteha, che la persona non dorma o non mangi, scusate, sotto quella trave. Cosa significa? Allora significa così. La halakha è che se c'è una sukkah che è kasher e ha uno sechach, una copertura che è kasher, e al lato, uno dei lati della sukkah, come nella figura, c'è dello sechach che non è kasher, come in questo caso, perché la trave è troppo larga per essere sechach. Quindi significa che questo caso si chiama che al lato c'è uno sechach che non è kasher. Tutto il resto è kasher e al lato c'è uno sechach che non è kasher. Subentra un principio che si chiama dofen akuma, parete storta. Noi consideriamo come se quella trave, che non va bene per lo sechach, facesse parte della parete ed è come se la parete facesse così, andasse un po' verticale, Come se la prete cominciasse da qui, come se la parete iniziasse Non, dopo quel pezzo di sechach, ok? La consideriamo una parte della parete. Fino a 4 amot potremmo avere 4 amot, 4 cubiti addirittura, non solo 4 pugni, ma 4 cubiti, circa 2 metri quasi, di sechach invalido. Se è attaccato al muro, accanto al muro, consideriamo come se il muro andasse fino alla fine di quello schach. Si chiama Dofen Akuma. Muro storto, parete storta. Ok? E quindi possiamo rimanere nella sukkah, ma non possiamo fare le mitzvot della sukkah sotto a quella parte, perché quella la consideriamo come se fosse è parete, non un muro. come se fosse schach. Ok? Quindi questi sono dei principi da ricordare. Dofen Akuma, parete storta, quando abbiamo uno sechach invalido al lato della sukkah fino a 4 cubiti di larghezza, la consideriamo una parte della parete. la sukkah quindi rimane kasher, ma noi le mitzvot e la sukkah non le possiamo fare sotto a quella parte della sukkah, bensì sotto lo schach regolare. Ok? Quindi il schach può non è, e la sukkah rimane kasher. Non è necessario che sia al 100% in regola, ha un margine di tollerabilità. Sì, se usata poi in questo ci modo. Sono diversi, diverse situazioni che vedremo. Questo è uno dei casi in cui sarebbe possibile, perché essendo accanto al muro esiste un principio di Dofen Akuma. Però le travi ci devono essere per forza, in teoria. No. Se fosse al centro già sarebbe un problema. Come? Come si reggono le palme senza travi? In teoria io sto pensando. No, allora, sì, ci devono essere dei supporti per le palme o per qualsiasi altra cosa che tu metti. Però questi supporti normalmente non sono così larghi. No, no, no. Da essere una quarantina di centimetri di larghezza o 30 centimetri, quindi non pongono nessun tipo di problema. Ok? Se fosse al centro sarebbe un problema. Se non fosse al centro sarebbe diverso e vedremo. Ah no, stavo a dire, non è kasher, che dice di installare. La domanda è, ci potrebbero essere dei casi in cui la sukkah comunque rimarrebbe kasher, anche se è al centro, perché se... Se operi nella parte giusta... No, se io ho una trave al centro della sukkah, che diciamo è troppo larga per essere kasher, ok? Ma da questa parte della sukkah e da questa parte della sukkah c'è spazio a sufficienza, perché per servono solamente tre pareti per essere una sukkah valida. E c'è dello schach sia di qui che di là, allora in teoria è come se avessi due sukkot, una qui e una qui, e puoi stare o sotto questa o sotto questa e non sotto la trave. Sì, però allora c'è sempre quel discorso della percentuale, perché se anche questa parte qua fosse... più grande di 4 amot e quindi mi arriva è attaccata alla parete, però praticamente la percentuale è maggiore del... ci serve nella sukkah una maggioranza di ombra che viene dallo schach. Ok, questo è vero, e di nuovo sì, esiste questo concetto, ma anche lì bisogna vedere in quella parte che rimane non coperta dalla trave, se non ci fosse la trave, comunque quella sarebbe ombreggiata dallo schach che sta sopra, in teoria sarebbe kasher. Ok. Se in caso facessimo una sukkah sotto, come ha detto lei, che ne sai, in un terrazzo che sappiamo che sopra c'è un'altra casa. In America vanno in giro con la sukkah per la bicicletta, quindi è così. Questa sukkah che siete solamente per la metà, che so, c'è il minimo. Esatto, allora sulla metà, su quella metà sarebbe kasher. Ha fatto l'ottimo esempio Alessandro. Quello che noi stiamo dicendo della trave potrebbe essere più comune l'esempio di un terrazzo sopra il nostro. Cioè io costruisco una sukkah sul mio terrazzo, sopra il mio terrazzo ce n'è un altro che sporge non totalmente sulla mia sukkah, ma in parte. Allora se io sto nella sukkah mia sul mio terrazzo, ma sulla parte esterna, da dove non sporge fuori dalla verticale del terrazzo, insomma. Fuori dalla verticale del terrazzo superiore, allora sto in una sukkah kasherah, mentre la parte della sukkah che sta sotto il terrazzo non è kasher. Quindi potrei avere una sukkah che è in parte kasher, in parte no. Questo è l'esempio. Costruita sotto degli alberi non è kasher. No. Sì, abbiamo studiato la scorsa volta, sotto un albero una sukkah non è kasher, è come se fosse dentro una casa. Ora Mishnah Zain, Mishnah sotto, numero 7. Proprio sotto. Esatto, cioè, se è coperto dagli alberi. Così gli alberi invece potrebbero essere da parete per la sukkah, questo sì, se non coprono sopra. Vabbè, è difficile. Sì, però diciamo in teoria. Abbiamo fatto l'esempio in Ceravate, ma gli alberi delle piante arrampicanti che possono... Sì, ho sentito che tu hai fatto la considerazione... Che hai detto, ho fatto bene a chiedere, no, anche per la tua... Allora, scusate, con il vostro permesso, Mishnah numero Zain, Mishnah numero 7. Ora, stiamo sempre parlando delle travi. Se ci fosse un tetto già formato dalle travi, non fatto appositamente per la sukkah, e le travi sono minori di misura problematica, quindi andrebbero bene in teoria. Però il problema è che questo è un tetto già esistente, non è stato fatto per la sukkah. Abbiamo studiato la scorsa volta che esiste un principio... Visto che è scritto ta'asè, tu devi fare la sukkah, non deve essere una cosa già fatta di per sé o in automatico, deve essere una cosa che è fatta appositamente per essere una sukkah. Allora se tu dici, guarda questo tetto, è kasher per la sukkah, ha le travi ma sono minori della misura problematica, dove prima abbiamo visto la discussione, non c'è discussione. Allora in teoria la sukkah è kasher. Però è una sukkah che già che non hai fatto tu per essere una sukkah. Già fabbricata. Allora vediamo come si esprime questa halakha. Tikra she'en aleha ma'aziva, se c'è un tetto, quindi non è stato fatto per sukkah, c'è già un tetto, tikra significa tetto, che non è coperta dalla come dire, calce o quello che si mette sopra le travi per protezione, per come si dice, collante o quello che è, non c'è nessun intonaco, non c'è niente, quindi solo le travi. La domanda è se lo posso usare per una sukkah oppure no, perché deve essere fatto da te, non una cosa già trovata pronta. Rabbi Yehuda Omer, viene Rabbi Yehuda e dice che in un caso di questo tipo ci sarebbe un rimedio per poter poi usarlo come sukkah, ma questo rimedio è discusso tra Beit Shammai e Beit Hillel. Dice Rabbi Yehuda, qui c'è una discussione tra Beit Shammai e Beit Hillel. Qual è la discussione? Beit Shammai Omerim. La casa di studio di Shammai, i maestri dello Shammai dicono bisogna fare due cose per rendere kasher questa situazione. Uno, mefakpek. Mefakpek significa bisogna fare alzare e rimettere giù queste travi, cioè muoverle, scuoterle letteralmente. Perché così tu attivamente stai facendo qualcosa e non è solamente quello che hai trovato. Anche se le rimetto allo stesso posto. E inoltre la seconda cosa che bisogna fare è notel achat mi bentaim, e togliere in alternanza una trave. Cioè ci può essere una trave vuoto, una trave vuoto, e in quel vuoto mettere uno schach normale. Una copertura di palma normale, non trave. Questo secondo Beit Shammai. Cioè bisogna fare secondo lui due cose. Uno, per evitare il problema di trovare la sukkah fatta in automatico e farla invece di proprio, bisogna scuotere, alzare e rimettere le travi. Due, per evitare che sembri un tetto vero, bisogna toglierne una, lasciarne una, togliere la terza e così via, e lì mettere una copertura normale. E così potrebbe essere kasher questa sukkah. Questo secondo Beit Shammai, come riportava Rabbi Yehuda. Sempre Rabbi Yehuda invece riporta l'opinione di Beit Hillel, che è più facilitante. Il Beit Hillel Omrim, non servono entrambe queste cose. Visto che le travi sono minori di tre tefachim, non c'è problema nelle travi stesse. C'è solo il problema di trovarlo già fatto. Di conseguenza basta una di queste due. Con una di queste due tu risolvi il problema. O le travi o smolti. Esattamente. Guardiamo come lo esprime. Penultima riga sulla pagina 1. Mefakpek o notel achat mi bentaim. Invece di un hotel e togli, dice o notel. O fai lo scuotamento oppure togli uno in alternanza uno dall'altro. Questa è la tradizione riportata da Rabbi Yehuda, ok? Che c'è una discussione tra Rabbi Shammai e Beit Hillel, come abbiamo spiegato. Invece Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dice, secondo lui non c'è discussione tra Beit Shammai e Beit Hillel, ma anche secondo Beit Hillel non è sufficiente solamente scuotere e muovere, ma è necessario notel achat mi bentaim. È necessario, secondo lui, togliere una trave da ogni due, da tra ogni due, quindi una alternata, e coprirlo con un sechach normale, anche secondo Beit Hillel, quindi secondo tutti, perché secondo lui, per la gzerà, per il decreto di non usare le nesarim, le travi, perché non sembri un tetto normale, non si può fare. E bisogna togliere una da tra le altre, come diceva Rabbi Meir nella Mishnah precedente, Oser, io lo vieto, la vieto la trave. Ma l'Halakha segue Rabbi Yehuda come lui riportava l'opinione di Beit Hillel, ovvero che basta o scuotere o rimuovere, alternato. E quindi anche qui abbiamo fatto riferimento a due principi. Uno, quello che non sembri un tetto, cioè questa Gezerah, questo decreto. E il secondo, che si chiama Ta'asse, devi fare, e che la Sukkah non sia velo min ha'assui, non da ciò che è già fatto, ma deve essere attivamente la partecipazione della persona o l'intenzione fatta per la Sukkah. Ma deve essere per forza, che ne so, fatta da quattro pareti? Oppure... Bastano tre pareti. Perciò, se, che ne so, se avessi... abbiamo sopra il calcestruzzo e tipo c'è una parte che è libera, noi possiamo fare la parete che va sotto al calcestruzzo in poi, che sono anche triangolare, che passa, oppure che... Puoi usare anche le pareti già esistenti, la parete della casa, quello che è, basta che ci siano... Lo fai tu. Eh? In quel caso è qualcosa di già fatto. No, no, no, ok, allora, quando noi abbiamo detto... che devi fare e non deve essere fatto, questo è un riferimento alla copertura della Sukkah. Le pareti possono essere già fatte da prima. L'importante è la parte sopra. Ok? Sì? Sì. Noi abbiamo sempre parlato fino alla del tetto, ma dove... Adesso arriveremo anche alle pareti. Sì, sì. Praticamente che noi abbiamo studiato la regola che la parete, che poi era discussa questa regola, non può essere, non poteva essere alta di 10 tefachim, perché praticamente 10 amot, 10 cubiti, una questione del sole. Anzi, se 20 cubiti, 10 metri. Se io costruissi la succa in una costena, perché ha detto prima costena, che è più alta di 20 cubiti, e la costruisco all'interno con pareti più basse di 10 cubiti, di 20 cubiti, non devi fare pareti più basse. Ora spiego. Allora, la domanda di Leone è molto interessante. La prima Mishnah di questo trattato, noi abbiamo detto qual è il limite di altezza di una Sukkah. E la risposta è Esrim Amma, 20 Amot, che sono circa 10 metri. Ok? Quindi se la Sukkah è più alta di 10 metri, non è valida. Allora la domanda che fa Leone è se io avessi, e io ce l'avevo così prima quando abitavo qui, una chiostrina all'interno di un appartamento. E la definizione di una chiostrina è che è un luogo aperto, però è rinchiuso dai quattro lati, o da tre lati, normalmente di quattro lati, della struttura stessa dell'edificio. Quindi significa che l'altezza delle pareti di questa chiostrina, ben più, in quasi tutti i casi, è più alta di 10 metri, giusto? Ok. Ora, di nuovo, quello che definisce la Sukkah è lo sechach, è il tetto e la copertura. Quindi... se io uso queste stesse pareti e metto qualche aggancio dove posso porre qualche trave su quale metto della schach, della copertura, ad un'altezza normale, per esempio, di 2 metri, la Sukkah è una Sukkah al 100% valida, perché stiamo sotto una copertura normale. Che le pareti stesse poi continuano ad salire non mi disturba. Il problema sarebbe se la copertura sarebbe a 20 amot. A 10 metri. Le pareti possono essere alte come un grattacielo. L'importante è, quando noi diciamo l'altezza della Sukkah, stiamo parlando di nuovo della copertura. La copertura indica la lunghezza della parete. L'altezza, sì. È la copertura che indica l'altezza della parete, sì. Dove c'è la copertura è lì che conclude la Sukkah. Più alto della copertura non è più Sukkah. Quindi non è un problema. Vogliamo fare un'altra Mishnah? Una riga. Quando quella fai la Sukkah? Allora, la Mishnah Chet, la Mishnah 8, pagina 2. Hamekare Sukkato Bashipudin o Barukot Amita. Se una persona mekare, dalla parola tikra, tetto, se fa una copertura, un tetto per la sua Sukkah, con degli spiedi di metallo, ovviamente lui intende mettere questi spiedi e poi coprirli con una copertura di sechach normale, come supporto. Oppure usa un'altra cosa che non è metallo, ma sempre non è valido per lo sechach, cioè aruchot amita. Vedete la figura? Aruchot amita sono le travi lunghe del letto che tengono il materasso. Queste sono reuyim le kabel tuma, potrebbero ricevere la tuma essendo considerate un utensile. Cioè, non è un pezzo di legno grezzo. Ok? Allora è già formato, si chiama Keli nel linguaggio alachico. Di conseguenza, sia ovviamente i spiedi di metallo che le arucot amitah, che questi travi lunghi del letto, non vanno bene per lo sechach. Però io vorrei metterli sopra la sukkah per fungere da supporto. Allora, la Mishnah dice, im yesh revach beinehen, se c'è spazio tra di loro, quindi tra ognuno degli spiedi di metallo, tra ognuna delle travi del letto, c'è spazio, revach, spazio, che motan, che lo spazio è grande quanto l'oggetto stesso, o un po' di più in realtà, allora kshera, la sukkah può essere kasher. E questo lo devi mettere sul dal letto, lo metti sul tetto. E tu vuoi prendere pezzi dal letto e usarli, o pezzi fatti per questo motivo, e usarli sopra come supporto. Allora il problema degli spiedi qual è? Che non cresce dalla terra, quindi non può essere un sechach. Il problema dei pezzi del letto, anche se sono di legno, qual è? Che, sono nati che potrebbero contrattare l'impurità. E quindi non vanno bene da sechach di per sé, ma se c'è tra di loro uno spazio grande quanto loro stessi, e questo spazio è riempito da una copertura di sechach normale e kasher, allora la sukkah è kasher. Il secondo din, la seconda regola di questa Mishnah, hachotet begadish, e vedete anche la figura a destra sotto, colui che scava dentro ad un pagliaio. Tu hai un mucchio di paglia grande nel campo, cosa fai? Togli l'interno e ti rimane una sukkah, in teoria. Allora, secondo voi, questo è kasher o no? No, perché non può essere kasher. No, non è kasher. Perché non c'è spazio. Sarebbe tutta chiusa sopra. Non passa luce, non passa. Secondo me non c'è un fatto d'ombra tra pareti e... Allora, chi ha detto che non è una sukkah è corretto, ma qual è il motivo? Due sono, per me uno non è costruito, l'altro non è... Non passa il sechach, non è corretto. Allora, chotet begadish la sot bo sukkah, se tu scavi dentro un pagliaio per farci una sukkah, e ina sukkah, non è considerata una sukkah per il principio che diceva Leo, ta ase velomina asui. Tu devi fare il tetto e non trovarlo. Se tu togli il sotto, automaticamente ti trovi una copertura, ma tu la copertura la devi fare. Non devi farla trovare però automaticamente. Togliere la parte alta e rimettercela sopra. Potresti togliere la parte secondo alta e rimettere sopra, come abbiamo detto prima, mefakpek, fare così, e scuotere e rimettere. Allora tu hai fatto un'azione per fare la copertura e sarebbe kasher. Il problema di distinzione tra parete e schach non è un problema. Il problema di non essere piatto sopra non è un problema. In questo caso il problema è solamente che è fatto e non... Cioè è trovato fatto e non fatto da te. Quindi la forma di una sukkah può anche essere di diverse forme. Cioè sì. Non è detto che debba essere per forza squadrata. Assolutamente sì, se tu vedi la figura sotto. Ma... No, infatti parleremo di questo. Ma no, più giù. Si perde del tutto. No. Non concludiamo, concludiamo la... Allora siamo arrivati alla Mishnah Tet, che... In quella Mishnah, la prossima lezione, parleremo delle pareti invece della sukkah. Buona giornata.